dammi colori. Eccellenza, vado. Fa il tuo piacere. Vieno il paniere, fa penitenza. Fame non ho. Oh, mi rinquesce. Vai con te, c'è chiù. Ah.